Lezione 12. Neemia, capitolo 9, versetto 33. Ve atta tzaddik al kol haba alenu. Uno re, capitolo 18, versetto 11. Ve atta atta omer lech emor la adonecha Hinné Eliyahu. Uno re, capitolo 18, versetto 9. Wayomer me chattati ki atta noten et avdecha beyad Achav lahamiteni. Uno re, capitolo 18, versetto 21. Waygash Eliyahu el kol ha'am, wayomer, ad matai atem posechim al shte aseipim? Uno re, capitolo 19, versetto 11. Wayomer, tse we amadta bahar lifne Adonai, we hinne Adonai over. Deuteronomio, capitolo 2, versetto 18. Atta over hayom et gevul Moav et Ar. Deuteronomio, capitolo 7, versetto 16. Ve achalta et kol ha'amim asher Adonai Elohecha noten lach. Lo tachotz enecha alehem, velo ta'avod et Elohehem, ki mokesh hu lach. Deuteronomio, capitolo 1, versetto 35. Im ir'e ish ba'anashim ha'elle, ador hara adze, et ha'aretz atova. Asher nishbati latet la avotechem. Numeri, capitolo 32, versetto 13. Vaychar af Adonai be Israel. Vay niem bamidbar arbaim shana ad tom kol hador haose hara be'ene Adonai. Deuteronomio, capitolo 1, versetto 30. Adonai Elohechem haholech lifnechem hu illachem lachem kechol asher asa ittechem bemitzraim le'enechem. Deuteronomio, capitolo 1, versetto 38. Yehoshua bin Nun Ha'omed lefanecha, hu yavo shamma. Oto chadzek, ki hu yanchilenna et Israel. Deuteronomio, capitolo 2, versetto 4. Ve et ha'am tzav lemor. Atem overim bigvul achechem, bene esav, hayoshevim Beseir, we ireu mikem. Genesi, capitolo 32, versetto 20. Vaitzav gam et asheni, gam et ashelishi, gam et kol haholechim achare ha'adarim. Giosuè, capitolo 2, versetto 7. We ha'anashim radefu acharehem derech ha'yarden al hamma berot. We ashar sagaru achare ka'asher yatzeu arodefim acharehem. Giudici, capitolo 1, versetto 24. Vai u Ashomerim ish Yotze Min Ha'ir. 1 Re, capitolo 18, versetto 19. We atta shelach kevotz elai, et kol Israel, el har ha'karmel, we et nevi'e abba'al arba meot wa chamishim, u nevi'e ha'ashera arba meot, ochele shulchan Izabel. 2 Re, capitolo 10, versetto 21. Vaishlach Yehu vechol Israel, vayavou kol ovde Abbaal. Esodo, capitolo 20, versetti 5-6. Ki anochi Adonai Elohecha el Kanna. Poked awon avot al banim al shilleshim ve al ribbeim lesoneai ve ose chesed la alafim le ohavai u leshomre mitzvotai.